Storie de noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari ed Antonio Ceccato. Buonasera a tutti voi cari ascoltatori e tanti auguri da parte di Gesi e di Antonio. Tanti auguri Antonio anche a te, sai? Reciprocamente, ecco. Anche ai nostri ascoltatori, ascoltatrici e naturalmente a tutti i collaboratori di Blu Radio Veneto, in particolare al nostro regista che certo. Noi non citiamo frequentemente ma è sempre nel nostro cuore. Io dico sempre che è il nostro angelo custode. Ecco. Certamente. Ecco. Allora diamo un cordiale benvenuto alle amiche e agli amici di Blu Radio Veneto che invitiamo alla nostra consueta passeggiata virtuale tra sentimenti, emozioni e ricordi sulle frequenze di 88 e 70 e 94 e 60 in FM. Per chi lo desidera segnaliamo anche la possibilità di seguire il programma in streaming o di effettuare il download dal sito bluradioveneto.it. Stasera avremo un ospite che penso che tanti si ricorderanno, della molto signora gradita, Bellotti, sì. Imperatori, esatto. Che ci parlerà, non so, della Pasqua. Vediamo un po'. E intanto però noi andiamo col primo brano in programma che è Echi d'infinito di Antonella Ruggero. Benissimo. Che notte chiara di stelle, tutto è più dolce dopo un temporale, dopo i giorni del bianco. Adesso si apre il cuore. Ma che sorpresa, cantando può nascere una rosa anche dal fango. Nei deserti più assolati o negli eterni inverni. Che sorpresa una rosa, ma che sorpresa io vivo di accenti, di presentimenti, profumi che sento nell'aria, e vivo di slanci, di moti profondi, fugaci momenti. C'è più bella cosa che ci unisca, nella fortuna o nelle tempeste del destino. Restami accanto per sempre, restami accanto. Io vivo. Eccoci di nuovo in studio e avremo al telefono la signora Bellotti Imperatori, sempre nostra ospite graditissima. Signora, buonasera. Buonasera signora, bentrovata. Buonasera a tutti. Come sta signora? Abbastanza bene, dai, andiamo avanti. Bellissimo. Cerchiamo di vivere giorno per giorno, certo. Anche quel che resta del giorno. Serenamente per quanto possibile, naturalmente. Certamente, questa è l'intenzione prima. Grazie. A lei la parola signora. Grazie. Gentili amici ascoltatori di Blu Radio Veneto, ben ritrovati. Ho accettato con piacere l'invito rivoltomi a ricordare con voi la Santa Pasqua che sta per venire, a portare a voi tutti il mio saluto e l'augurio di ogni bene. La Santa Pasqua è la festa più significativa della nostra religione, nel ricordo di nostro Signore Gesù e del suo sacrificio per ridonarci la vita dell'anima e per offrendo per noi la sua vita che si rinnova. Ritroviamo costantemente tutto nel sacramento della comunione, nella Santa Messa. Quindi a tutti voi un augurio di una Pasqua radiosa e luminosa, una Pasqua nel ritorno alla vita per la terra, per il risveglio di piante e fiori e per la bellezza che riveste la terra tutta. Quest'anno una Pasqua bassa, direbbero i nostri nonni, in rapporto a quanto la stessa festa cade verso la fine del mese di aprile, detta pertanto alta. Un vecchio proverbio dice: alta o bassa che sia, Pasqua laga sempre la sua frasca. Ma noi che amiamo questa festa in ogni rito che la precede di altissimo significato, ne stiamo in Settimana Santa vivendo intensamente ogni ricordo che la liturgia ci propone. Giovedì Santo, l'adorazione dell'Eucarestia trova in ogni chiesa, piccola o grande che sia, la sua esaltazione nell'esposizione per l'adorazione del Santissimo, personale o comunitaria, ai piedi di altari vestiti a festa in profusione di fiori e luci. Il pensiero va lontano, rievoca momenti familiari condivisi amorosamente, ritrova luoghi vissuti, volti e voci della festa amata, sapore d'infanzia legato a riti e piccoli doni. Mi è grato, pertanto, rivedere con gli occhi del ricordo la mia casa paterna rivestita a festa per l'occasione. Una grande frenesia sembrava rivestire, dopo il raccolto inverno, le donne di casa, nello spalancare finestre, lucidare i rami argenterie, spolverare travi e soffitti. Al sole brillavano i vetri lavati con cura, le porte alte lucidate a cera, così come i pavimenti delle stanze a più riprese resi splendenti, anche con la corsa di noi bambini con ai piedi i famosi pattini di feltro. Animazione e gioia si riflettevano poi in ogni stanza della casa, le stanze da letto, dove coperte candide di fileo o onesti picche ricoprivano ogni giaciglio. Nella sala da pranzo, dove mia madre ogni sabato santo apparecchiava il tavolo con la più bella delle sue tovaglie di Fiandra, poneva su di essa poi la grande focaccia mandata dalla nonna, un piatto pieno di uova colorate, un salame goloso, tre colombine di pasta dorata. Tazze di porcellana bianche da caffè e tè completavano la composizione ordinatissima, all'ombra di un grande mazzo di fiori e rami d'ulivo. Potremmo ascoltare ora una piccola musica che ci riporti un po' anche la gioia di quel momento. Bene, allora adesso ci ascoltiamo il secondo brano in programma. È il Cantico delle Creature di Angelo Branduardi. Confanno gloria e onore, a te ogni laude et benedizione, a te solo si confanno che l'Altissimo tu sei, e null'uomo degno è temento vai. Si laudato mio Signore con le tue creature, specialmente fra te sole la sua luce, tu ci illumini di lui che bellezza e splendore. Altissimo Signore porta il segno, si laudato mio Signore per sorelle, luna e stelle, che tu in cielo li hai formate chiare e belle, si laudato per frate vento, aria, nuvole in maltempo, che alle tue creature dà un sostentamento. trappa, è lei casta molto utile e preziosa, si laudato per frate fuoco che ci illumina la notte, ed è bello giocondo e robusto e forte. Signore, per la nostra madre terra, ella è che ci sostenta e ci governa. Si laudato mio Signore, vari frutti lei produce, molti fiori coloriti e verde l'erba. Si laudato per coloro che perdonano per il tuo amore, sopportando infermità e tribolazione, e beati siamo coloro che cammineranno in pace, che da te, buon Signore, avranno corona, si laudato mio Signore. Ed eccoci di nuovo in studio con la nostra ospite, alla quale lasciamo la parola. Laudatomi, Signore, laudato sempre in tutte le tue creature, così come diceva San Francesco. Ecco, torniamo allora al ricordo. Ormai la Pasqua 2015 sta finendo, ma i ricordi che l'hanno ravvivata in questi giorni l'hanno resa forse, e mi auguro a tutti voi, molto più preziosa. Ecco, io ritorno allora a quello che era un momento molto importante nelle case di tutti noi. Era la visita di benedizione che ogni sacerdote portava di casa in casa. Infatti, quel rivestire la casa di bianco, di pulito, di lucente, aveva soprattutto questo significato, cioè prepararci alla Pasqua con un'anima lieta, con un'anima serena, con un'anima scevra dal peccato, da ogni cosa che potesse appesantirla, e poterla vivere insieme ai nostri cari o con tutte le persone che ci circondavano in un modo molto particolare. L'esteriorità quindi diventava anche preziosità, e quindi il discorso della coperta bianca sui letti, della tovaglia candida, aveva questo anche significato. E mi ricordo proprio la visita particolare del sacerdote che dalla parrocchia che presiedeva insieme ai suoi collaboratori partiva per andare in tutte le case del quartiere o del paese stesso a dare la sua benedizione. Egli conosceva certo un po' tutta la famiglia, aveva battezzato i nuovi nati, aveva pregato sui morti, aveva portato la sua benedizione attraverso i bambini della prima comunione, della loro prima della loro cresima, quindi era una persona molto familiare a tutti. Eccolo, il sacerdote arrivava in cottestola nel sole della mattina, accompagnato da un chierichetto. Si fermava sulla soglia di ogni abitazione e a porte spalancate questa riceveva il largo suo gesto di benedizione con l'aspersorio, accompagnato dalle parole pace a questa casa e dai suoi abitanti. Un rito ormai scomparso nelle nostre città, desueto, anche nei nostri paesi, per ovvie ragioni di orari, lavoro, traffico, ma che a ripensarlo, cari amici, riempie il cuore e gli occhi di tenerezza e commozione. Sì, la mamma aveva preparato anche il tavolo da pranzo, il più importante, quello della casa, nella sala che normalmente riuniva tutta la famiglia, o anche quello del tinello più modesto, o anche della cucina stessa, ma su di essa, o di esso, un trionfo di cose, di tutte cose che però avevano il loro significato. Infatti, come vi dicevo prima, c'era la grande focaccia, normalmente mandata da una persona cara, dalla nonna nel mio caso, un piatto pieno di uova colorate, addirittura il salame, un salame goloso, chissà perché, 3 colombine e poi di pasta dorata. Sì, mia madre esponeva anche in quell'occasione il suo miglior servizio, tirava fuori le tazze di porcellana che normalmente erano chiuse nella vetrina della sala stessa, oppure quelle del tè, e quindi era tutto ordinato. Ma perché? Tutto aveva e prevedeva quello che nella mia città si chiamava poi la colazione pasquale. Quindi, come la mattina scorsa, ecco, tornati dalla messa, si faceva un pasto, il primo pasto del giorno festivo, al rientro appunto dalla santa cerimonia. Si andava presto in chiesa perché era imposto il digiuno dalla mezzanotte, quindi anche per noi bambini, per mano ai nostri genitori, ai nostri nonni, era importante avere ricevuto il sacramento già di buon mattino. Al rientro, ecco che tutti insieme ci si sedeva a tavola per un caffè particolare, un cioccolato per noi bambini o un tè che ci emozionava, perché vestiti a festa sedevamo a tavola con i nostri cari. Una colazione quindi veramente tutta particolare, no? Ed ecco le tre colombine di pasta dolce nelle mani di noi bambini, erano state fatte dalla nonna, dalle sue mani sapienti, e odora sembravano palpitare di vita nelle testine rotonde con il piccolo becco di mandorla, gli occhietti vispi di uva passa, le piccole ali raccolte intorno ad un uovo sodo che poi mangiavamo con punti. Era il primo dono della Pasqua a ricordare la terra tutta e i suoi preziosi doni, ma più ancora il senso della vita nell'uovo e della risurrezione nel nome del Signore. Io credo bello, che bello. Che questo rito, che bello. Ecco, che mi riempie il cuore proprio anche nel pensiero dei miei cari, degli occhi rivolti a noi, possa portare a tutti voi, cari ascoltatori, il senso della famiglia, quello che forse in alcuni momenti dimentichiamo nella corsa affannosa che ci preme da dietro, che ci spinge sempre avanti in un tempo che sembra non riesca a trovare pace. Ecco, io mi auguro che ognuno di voi invece in questi giorni possa ritrovare nelle mani di un nipotino, nel suo visetto ridente, qualche cosa di quella gioia così serena, così pacata che noi abbiamo vissuto prima poi del grande evento e terribile evento della Seconda Guerra Mondiale. Ecco, il ricordo di giorni affannosi nei quali la serenità purtroppo fuggì completamente, ecco, è ancora una cosa che deve farci riflettere su quella che è la pace del mondo, su quello che è la voglia di speranza, la voglia di continuare a vivere, ma in un modo forse meno affannato, meno pieno di pensieri, di delusioni, di rammarico che stiamo purtroppo vivendo. Sembra però che all'orizzonte una schiarita ci sia, e questo naturalmente ci deve proprio infondere questa speranza, farci ritornare i sereni bambini di un tempo, quando con il cappellino di paglia nuovo, ne ho avuto io uno bellissimo, le famose pastorelle di Firenze si chiamavano, che erano ornate sulla tesa da fiorellini colorati e poi adornati di un nastrino di velluto nero che scendeva dalle nostre teste sulle spalle. Erano dei cappellini deliziosi. Mi ricordo che un anno in particolare la mamma ne aveva comperati due, uno per me e uno per mia sorella, e tutte e due vestite di azzurro e collettino bianco sfoggiammo questi cappellini particolari. Provate a pensare, che bello, la gioia bello. Di una piccola sì. famiglia che procede verso la chiesa, che poi ne esce ridendo e con serenità, e che poi si siede a quella tavola vestita di bianco, ornata di rami d'ulivo, per prendere insieme il primo caffè del giorno di Pasqua. Questa mattina ho ricordato tutto questo e devo dire che una profonda nostalgia mi è salita dal cuore, mi ha riportato anche il tempo tenero e prezioso della mia vita di sposa, dei miei bambini intorno al tavolo, sì, quei bambini che nella luminosità dei loro occhi hanno rappresentato tanto nella mia vita. Ora sono lontani da me, nel modo forse buono e sereno delle loro famiglie, ma che tanta importanza hanno avuto in questa mia povera vita. Mi fa piacere ricordare che stiate ascoltando la mia voce. Mi auguro che possa portarvi la voce di ognuna delle nonne delle vostre famiglie. Le nonne a volte sono un po' sole, cercate di ricordarle in questi giorni. Mi auguro che abbiano trascorso con voi Pasque serene, Pasque che riempiono il cuore, Pasque che sanno parlare soprattutto di quel tempo lontano di vita, quando loro erano motore e mente delle vostre famiglie, quando impastavano focacce, preparavano colombine dolci per i bambini, quando erano la presenza importante, la presenza quasi calamitante di ogni famiglia. È vero. Io mi auguro che vogliate bene alle vostre vecchie nonne, ai vostri nonni, della loro saggezza, delle loro mani ormai asciutte e rugose, ma ancora portatrici di amore e benedizione per ognuno di voi. Erano delle pietre miliari praticamente nell'esistenza di ciascuno. Signora, mi ha commosso tanto. Mi sono veramente commossa. Spero solo che il mio ricordo, anche in questo senso, sia del tutto legato alla famiglia, alle nostre famiglie, ad ogni nostro parlare, ad ogni nostro vivere, ad ogni nostro ricordare. Ecco, di questo ringrazio l'opportunità offertomi da Blu Radio Veneto, proprio perché è un modo per stare insieme a tante altre persone. Certo. Abbiamo necessità probabilmente di ricordare qualcosa che è, come dire, sotto la patina della velocità e diciamo del correre sempre, che poi non porta da nessuna parte, come vediamo oggi. È quello di fermarsi. Una volta si diceva, appunto, lei citava le nonne, i nonni e gli anziani, specialmente nelle civiltà orientali, ma anche qui da noi un tempo, sono delle enciclopedie viventi, alle quali si può, come dire, far ricorso per avere, come dire, delle nozioni che non possono essere apprese nella frenesia del momento attuale. Poi la tradizione orale noi sappiamo che è sempre importantissima. Assolutamente. Non c'è niente che possa, diciamo, essere più convincente e tenero di una filastrocca con i suoi piccoli insegnamenti, di un canto da bambini, di un girotondo, di qualche cosa che ci è stato tramandato dagli altri, che non abbiamo trovato sui libri, né ci è stato insegnato a scuola. È stato insegnato dalla voce delle nostre mamme o delle nostre nonne che ci tenevano in grembo, in Gaia, direbbero i nostri vecchi, ecco, che ci stringevano tra le braccia o ci facevano saltellare canticchiando le canzoni della loro giovinezza. Ecco, questo secondo me è anche un altro momento di grande tenerezza, che io penso sempre è bello che ci siano i nonni che pigliano in braccio i bambini, che ne toccano le manine tenere, quasi un flusso di vita che dall'uno passa all'altro. Staffetta generazionale, scambievole di queste cose. Ma forse questo è uno dei motivi per i quali io sono molto attratta da tutte le carrozzine che transitano per la nostra città. A me piacciono tanti bambini. Ecco, vorrei prenderli in braccio tutti. Mi astengo da qualsiasi gesto dei bambini, bene non toccarli, nel senso, a meno che non siano i nostri bambini. Sì, ecco. Però per fortuna io a Bassano del Grappa sono la nonna Elide un po' di tutti. Un po' di tutti. I bambini conoscono la mia voce e mi fanno larghi sorrisi. Ah sì, che bello. questo è un grande compenso. Che bella soddisfazione. È la cosa che più mi spinge a riuscire, anche quando non avrei voglia. A ritrovare dei volti, a ritrovare delle parole, il buongiorno, che veramente rende il giorno buono. Ecco. Esatto, e sono cose che poi rimangono nella mente di chi le riceve, naturalmente, per lungo e lungo tempo, molto più a lungo che non altre cose. Certo, infatti in questi giorni anche il Buona Pasqua, detto da tutti, ha avuto per me un grande significato. Sì, insomma, perché è una cosa gioiosa. Da persona autorevole cittadina, da tutti coloro che si possono incontrare, la compagna del caffè della mattina, il negoziante gentile. Ecco, questo Buona Pasqua così ha avuto un grande significato anche in questa Pasqua 2015. Adesso ci fermiamo un momentino per un altro brano, signora. Sì, grazie. Benissimo, è Dolce Sentire di Claudio Baglioni. Dolce sentire come nel mio cuore ora umilmente sta nascendo amore. dolce capire che non son più solo, ma che son parte di una immensa vita. Che generosa risplende intorno a me, dono di lui, del suo immenso amore. Ci ha dato il cielo e le chiare stelle. Studio, signora, i suoi racconti mi hanno fatto veramente commuovere, mi ha fatto ritornare veramente indietro nel tempo. Grazie, grazie. Ecco, perché ecco, allora a proposito di questi ricordi, così molto lontani, perché parlavo un po' della mia infanzia, mi hanno fatto anche ritornare con il pensiero a quello che io vivo ormai da più di 60 anni, cioè il nostro Veneto, la dolcezza della sua campagna, i suoi colori. E quindi in questi giorni che hanno preceduto la Pasqua ho ritrovato anche qui molti dei riti che hanno un grande significato in questo periodo dell'anno liturgico. Sono stata in chiesa per l'adorazione del Giovedì Santo, per quello del pensiero al Signore sulla croce il Venerdì Santo e poi la Via Crucis e poi alla Messa del Gloria che tempo indietro veniva celebrata il sabato mattina. Infatti quando cominciavano a squillare le campane del Gloria i bambini erano invitati a bagnarsi gli occhi perché sembra che l'acqua fosse benedetta in quel momento, scorresse da qualunque parte, ecco, perché doveva dare sanità al corpo e quindi attraverso gli occhi a tutta la nostra persona. Ora invece voi sapete che è divenuta una veglia pasquale, sì, cioè sì. Fatta di sera, è stata fatta anche quest'anno, cioè la notte di Sabato Santo, ed è dedicata soprattutto alla liturgia della luce, della parola, dell'acqua battesimale e dell'Eucaristia. La festa un tempo era certo, soprattutto in campagna, più corale dovunque, con processioni e in particolare con il nettar le caene, quelle dei camini, per parte naturalmente dei ragazzi e dei bambini. Essi, correndo, le trascinavano su strade ghiaiose o nei letti dei ruscelli sassosi per toglierne la caligine e farle diventare bianche. E con esse diventavano bianche anche i calcagni bianchi, i calcagni dei loro piedi, immersi nell'acqua insieme alle catene. Naturalmente si faceva di questo un attimo di ironica espressione con riferimento alla scarsa tendenza in inverno di lavarsi anche le estremità. Ricompensa per questo lavoro che si faceva anche per parenti, per amici, per chi non avesse bambini in casa, erano delle uova bollite o colorate. Colorate, sì. Ecco, con le quali si faceva poi il sugo degli ovi, ecco, o dell'uovo più forte. Penso che si facesse anche nel trevigiano, signora, certamente nel veronese, qui nel vicentino, ancora c'è qualcuno che in campagna fa il sugo degli ovi. Non lo, ecco, so, perché io sono di Mantova e quindi... Ah, la signora mantovana. Ecco, allora, beh, a Mantova non c'era questa tradizione? No. No, ecco, per esempio quello delle catene da lucidare, no, cioè le catene che erano proprio nel focolare, che reggevano il paiolo della polenta, le varie cose che servivano per la famiglia, qui nel Veneto so che per tradizione si pulivano, appunto, si facevano trascinare dai bambini via, era un divertimento anche quello, soprattutto appunto nel periodo di Pasqua o quello antecedente al Natale, quindi era anche questo un momento di gioia un po' corale di tutti i bambini del paese che giravano trascinando queste catene fino a che, libere dalla fuliggine, dalla caligine, non diventavano lucenti. Ah, benissimo. Ecco, dopodiché si riappendevano nel cammino della grande cucina. No. Ecco, cioè tutte cose, vedete, che erano sempre legate a questo senso del ridonar splendore. Ecco, ridonar splendore alle cose, così come al nostro stesso cuore, alla nostra stessa anima. Ecco, non so quanto oggi abbiamo ritrovato questa necessità, abbiamo sentito questa necessità, me lo auguro, ecco, e credo che l'invito anche ultimo di Papa Francesco, rivolto alle famiglie, rivolto a tutti noi, sia proprio in questa intenzione, insomma, soprattutto di una pace interiore, di un qualche cosa che ci faccia ancora riflettere sullo sbocciare di un fiore, o la chioma improvvisa di un albero di pesco, un mandorlo, ecco, un biancospino lungo una strada di campagna, ecco. Queste cose penso che riguardandole con occhi anche nuovi, diciamo, perché la vita di oggi impone altri ritmi, altre cose, ecco, ci dia però ancora questo senso di gioia e anche di ricerca quasi di pulizia, di una pulizia interiore, quella che ci auguriamo rivesta un po' tutto il mondo. Ma speriamo, c'è una cosa, speriamo, che in questo periodo ci ha tormentato e costantemente ci tormenta, è proprio questa mancanza di chiarezza, di pulito all'intorno, di cose mai trasparenti, mai visibili nel loro vero essere, ma così arruffate e così complicate che a volte si pensa, ma come hanno fatto a fare una cosa come questa? Come si può essere così infidi, così nei confronti del nostro prossimo? Insomma, eppure sono cose che accadono purtroppo ancora quotidianamente. È una dura realtà quotidiana. Ecco, in questo periodo così nero credo che sia soprattutto questa mancanza di rispetto di noi stessi e degli altri, perché nel momento in cui si consuma una frode è proprio il rispetto degli altri che manca, di quello che dovrebbe motivare invece il mondo, insomma. Certo. Quindi, ecco, allora queste catene nere, queste catene così incrostate di tutto, hanno veramente bisogno di essere trascinate per le vie, tra i sassi o nell'acqua di un ruscello, per essere mondate e diventare lucide, insomma, e luminose. Sì, ecco. Beh, sì. E quando ci saremo liberati da questi pesi così che opprimono, che devastano la nostra vita, credo che saremmo già a buon punto. Ma lo speriamo, veramente. Io me lo auguro sempre, per i miei nipoti soprattutto, per tutte le persone che amo e che mi circondano, insomma. La mia vita ha avuto periodi molto belli, periodi molto tristi, così come credo la vita di tutti. Sì, penso proprio di sì. Ecco, perché nulla ci viene risparmiato, le no? Prove, ecco, le prove non mancano. O neanche donato su piatti d'argento, ma le cose bisogna meritarle. Ecco. E quindi bisogna conquistarle, andiamo avanti. Sì, è vero. Allora questo gioco... Allora, allora parliamo un attimo per ritornare in serenità. Allora, prima ci, prima ci ascoltiamo un brano, eh? Ah, sì, senz'altro, bene, bene, benissimo. Grazie. E allora il prossimo brano è Il canto della terra di Andrea Bocelli. Sì, lo so, amore, che io e te forse stiamo insieme solo qualche istante, zitti stiamo ad ascoltare il cielo alla finestra, questo mondo che si sveglia e la notte è già così lontana. Guarda questa terra che gira insieme a noi, anche quando è buio. Guarda questa terra che gira per noi, a darci un po' di sole, sole, sole. My love, che sei l'amore mio, sento la tua voce e ascolto il mare, sembra davvero il tuo respiro, l'amore che mi dai, questo amore che sta lì nascosto in mezzo alle sue onde, a tutte le sue onde, come una barca che guarda questa terra che gira insieme a noi, anche quando è buio. Guarda questa Ed eccoci di nuovo in studio con la nostra ospite per un'altra tranche di questi ricordi straordinari. Grazie. Allora, volevo ritornare al nostro Veneto e raccontare anche a voi questo famoso sugo degli ovi, o anche detto dell'uovo più forte. Mio nipote si è molto divertito a questo ricordo, no? Rideva l'idea, insomma, di questa scenetta che ora vi racconto. Sì. Allora, il gioco procedeva in questo modo: tenendo un uovo tra le labbra o tra le dita, si cercava di rompere il guscio di quello dell'avversario, che, se sconfitto, passava il suo subito nelle mani del vincitore. Quindi chi aveva l'uovo più forte, diciamo, a fine gioco poteva avere vinto un bel numero di uova fino da portarle a casa. Ecco. E un'altra cosa che mi è venuta in mente proprio riguardo alle campagne venete, al momento nel quale io, insegnante, portavo magari il mio augurio alle varie famiglie girando in bicicletta così, mi ricordo che in attesa della Pasqua si imbiancavano le cucine e le stalle, si cucinavano le famose fugasse dorate e tutte cosparse di zucchero, e se ne sentiva quindi il andando profumo in strada, mamma, il loro è gradito, vero, profumo, è vero, è vero. Ecco, che proprio rendeva quasi euforici, sì, grandi, è vero, è vero, è vero, è vero. Ecco, quindi mi auguro per me stessa, auguro a me stessa e ad ognuno di voi, cari amici ascoltatori, che nel ricordo e nella celebrazione di questa Santa Pasqua 2015 abbiate goduto ogni bene con tutti i vostri cari. Mi auguro anche che abbiate vissuto con dolcezza il regalo dato ad uno dei vostri nipotini, il famoso piccolo o grande uomo di uovo di cioccolata, sì. Che loro siano stati felici e che voi però lo abbiate rivestito nel racconto di tutta la simbologia in esso contenuta, anche perché è valido sempre e profondamente il significato legato alla vita che riveste. Abbiamo quindi insieme fiducia nell'avvenire, speranza di una profonda serenità nella pace e nel lavoro di ogni giorno. Lieta Santa Pasqua, anche se ormai trascorsa, da questa emittente radiofonica. Il nostro augurio giunga anche e soprattutto a chi è solo, con il nostro fraterno abbraccio. Grazie a tutti, grazie. Grazie a lei, signora. La ringraziamo, grazie veramente per il suo di cuore. Intervento, che è stato straordinario. Veramente meraviglioso e commovente, ecco, questo è stato. Ecco, e contiamo di ritrovarla una prossima volta, naturalmente. Grazie, buone cose a tutti. Anche a lei, tanti auguri. A presto. Grazie mille, signora, grazie. Buona serata. Grazie, buona serata, sì. E noi continuiamo la nostra trasmissione con riferimento naturalmente alla Pasqua inevitabile, con una lettura, un frammento di lettura dalle Stagioni perdute di Sante Rossetto, Piazza Editore. Un frammento naturalmente, che un riferimento alla Pasqua, diciamo, nello stile contadino, nello stile di un tempo evidentemente. I ragazzi, ma anche gli uomini, non vedevano l'ora che Gesù risorgesse e tutto tornasse come prima. Quando, durante la cerimonia del Sabato Santo, il prete annunciava che Cristo era risorto, tutti tiravano un gran respiro. Le campane tornavano ad inneggiare con rinnovato entusiasmo e i cantori intonavano un lungo alleluia, dove nessuno badava alla correttezza delle note, purché la voce durasse più lunga che poteva. I fedeli in chiesa riprendevano a sorridere, i ragazzi a far rumoreggiare le panche e le sedie e le donne a chiacchierare. Tutti tornavano a casa più sereni, come se si fossero levati un peso dallo stomaco, e andavano a dormire senza il pensiero di processioni e confessioni. Angelo e i suoi amici, la domenica di Pasqua, dopo messa e comunione, aspettavano con impazienza il pranzo. Lasciavano volentieri i più grandi pezzi di gallina lesse e guardavano la credenza dove c'erano le fugasse. Arrivava finalmente il momento di tagliarle. I bambini attorniavano la mamma con il naso appiccicato al dolce. «Tirate via, se no te taglio col cortal!» gridava infastidita la mamma. Un profumo dorato si innalzava per tutta la cucina. I bambini agitavano la lingua da un angolo all'altro, allungando la mano per agguantare quel brandello di dolcezza. Gli uomini ammiravano le fette gialle odoranti e sorridevano. «Asa è proprio buona!» dicevano, ancor prima di gustarla. Dopo il vespero pasquale, dove veniva anche qualche adulto, tornava la vita di ogni giorno e fuori della chiesa i ragazzi ricominciavano appassionate partite di baete. Il giorno dopo era tempo di gita, in bicicletta ai paiassoni, passata la stradona che era anche asfaltata e correvano le macchine, uova colorate, fugasse, bottiglie di vino popolavano il grande prato in riva al fiume sacro alla patria. L'aria era bella tiepida e faceva venir voglia ai ragazzi di correre. Era l'ultimo scampolo di Pasqua. Prima che il sole andasse a dormire, i ragazzi tornavano facendo a gara chi arrivava prima e quando giungevano a casa avevano ancora fame. Dopo Pasqua, i chierichetti, in coppia, passavano per le case con un cesto a far la colta delle uova. Era il compenso che i fedeli offrivano per il loro servizio religioso. Angelo e il suo compagno entravano nelle case senza sudicion perché sapevano di essere ricevuti con un sorriso ed esercitare un diritto consolidato dalla tradizione. La padrona, spesso la donna più vecchia perché gli altri erano nei campi, li salutava con un sorriso. «Aise qua i nostri cotarioi paivovi, bravi tosatei!» Mentre la donna andava in cucina a riempirsi le mani di uova, i due ragazzi si fermavano sull'uscio con il cesto in mano, allungando il collo per vedere quante ne avrebbero ricevuto. «Ecco qua per i nostri bei cei», diceva depositando le uova nella cesta. «Stai attenti da non spaccarli». I due chierichetti salutavano in fretta e riprendevano la strada, confidandosi i sogni che volevano acquistare con la vendita della raccolta. I principianti dovevano accontentarsi di un compenso minore, perché quelli più grandi avevano un diritto di anzianità. Nei giorni seguenti passava anche il prete a benedire le case. Lo accompagnava il sacrestano con il fuoco sacro. Dopo aver asperso la casa e le persone, il nonsoio apriva il feral di vetro dove bruciava il fuoco. Una donna, con devozione, accendeva una scartoffia de Saturco nel fuoco consacrato, passandolo alla legna della cucina che riceveva la benedizione religiosa. «Reverendo», invitava la padrona finita la breve cerimonia, «un goto de vin?» Il prete si schermiva, soprattutto se era il cappellano che doveva dare esempio di sacrificio e bella condotta. «No, no, grazie, bisogna far qualche fioretto». «E u?» continuava la donna rivolgendosi al nonsuo. «Abbi par creanza, mesa ombra bevaria anche», rispondeva il sacrestano sorridendo. Poi, mentre il prete ripiegava la stola, riprendevano il loro giro per portare serenità e sicurezza della chiesa in tutte le case. Pensa un po', se ogni casa beveva un'ombra quando arrivava a casa. Queste erano tradizioni, diciamo, che come dire, al di là del rito, eccetera, eccetera, questa... come posso dire, senso di comunione, questo senso di serenità, eccetera, che la civiltà contadina aveva quando ancora eravamo una comunità, prima di diventare una società quale sì. Siamo diventati. Adesso... E vogliamo dirlo chiaramente, io credo che la civiltà contadina avesse molto da insegnarci con le sue difficoltà, le sue straordinarie fatiche, eccetera. Siamo commosso le parole anche della signora che parlava delle pulizie di Pasqua. Sono cose che rimangono a chi le ha vissute, chiaramente risuonano in modo straordinario. Io dico che siamo stati fortunati a vivere queste cose. Ma dirò cose. In quel periodo, ecco. Nonostante, ripeto, le fatiche straordinarie, io credo proprio di sì. Sì, appunto. E direi di andare allora con l'ultimo brano, naturalmente, che diciamo che brano? Meglio di così non si potrebbe, sì, il Padre Nostro di Oro. Sei venuto giù, questo mondo non capì, ti coprirono di spine in un lontano venerdì, molti risero di te e di chi ti accompagnò, ma il potere di ogni re la tua parola cancellò. Tra l'amore e la pietà, questa certa verità è rimasta dentro l'anima con noi. Ora guardaci se puoi, ricordati di noi. Dove sei stanotte tu, se la gente adesso va in un mare non più. Adesso tu sei nel buio di una via, c'è chi vende, c'è chi compra, il niente che ti porta via. Devi dirci dove sei, perché vivere vorrei. Quanto male si è fermato adesso qui, dove sei finito? Mentre qui combattono, mentre tutti scappano, mentre qui calpestano la dignità degli uomini, tu dici come vivere. Dove sei stanotte che queste lunghe malattie hanno lasciato cicatrici grandi come quelle tue? Dove sei, ritorna qui, perché il debole non sia una vittima lasciata sola per la via. Devi dirci dove sei, perché dirtelo vorrei, che la vita non è facile per noi, come siamo soli. Mentre qui combattono, mentre tutti scappano, sai, stanotte io ti cercherò. Dove sei? Dove sei se non ci sei? Eccoci di nuovo in studio per gli ultimi minuti in sostanza. Antonio, a te la parola. Ecco, volevo fare un po' leggere un po' il risvolto di copertina delle Stagioni Perdute. Come vivevano i bambini mezzo secolo fa, anche più di mezzo secolo fa ormai? Quali i loro sogni, i divertimenti, le speranze, le attese? Erano gli ultimi scampoli di cultura contadina, una cultura che aveva dominato per lunghi secoli, caratterizzando l'esistenza di innumeri generazioni, che erano vissute seguendo atavici rituali, osservando regole immutabili, anche se mai scritte. Generazioni che avevano lasciato un'eredità di fatica, sudore, amori, sofferenze e poche gioie. I brandelli conclusivi di questa epopea contadina sono rivissuti attraverso gli occhi, il cuore e le gambe di Angelo, un bambino che frequenta le elementari nei primi anni 50. L'Italia non ha ancora rimarginato le ferite della guerra. L'economia è esclusivamente legata ai campi, il sacrificio una parola quotidiana. Eppure in questo universo, che oggi appare irreale, Angelo sa trovare una sua dimensione ricca di frenesia esistenziale, vivendo e gustando con spontaneità i piccoli doni della vita. Conquiste quotidiane che sanno dare momenti di indimenticata soddisfazione, perché nulla viene regalato. L'autore propone un quadro di vita vissuta alle nuove generazioni, cresciute dimenticando spesso ogni fatica, abbandonando qualsiasi spirito di rinuncia, pretendendo sempre ogni cosa come un diritto e rifiutando il concetto di sacrificio. Un documento storico che, alla vigilia dell'immane sconvolgimento economico, sociale, morale e religioso che sta per travolgerci, si presenta come testimonianza di un mondo scomparso, con il recupero di sentimenti, affetti, espressioni ormai cancellati. Ecco qui. Benissimo. E quindi, per concludere, diciamo, abbiamo pochi minuti, vorremmo così questa volta, e magari per le prossime, se potrà trovare gradimento da parte degli ascoltatori, creare un piccolo angolo che potremmo chiamare Storie de che altri. Un angolo in poesia, una poesia in lingua straniera. Questa sera cominceremo con l'inglese, altre volte faremo con lo spagnolo, magari con il tedesco, con il francese, eccetera. Naturalmente avvisiamo subito i puristi delle lingue che non sarà un qualcosa di aulico, un qualcosa di straordinario. Cercheremo comunque di mantenere le sonorità dell'originale, e poi avremo la traduzione in italiano. Benissimo. Allora, questa sera inizieremo con una poesia di Rudyard Kipling, If, Letter to a Son. If you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it in you. If you can trust yourself when all men doubt you, but make allowance for their doubting too. If you can wait and not be tired by waiting or being lied about, don't deal in lies, or being hated, don't give way to hating, and yet don't look too good nor talk too wise. If you can dream and not make dreams your master, if you can think and not make thoughts your aim, if you can meet with triumph and disaster and treat those two impostors just the same. If you can bear to hear the truth you've spoken, twisted by knaves to make a trap for fools, or watch the things you gave your life to broken, and stoop and build them up with worn-out tools. If you can make one heap of all your winnings and risk it on one turn of pitch and toss, and lose, and start again at your beginnings, and never breathe a word about your loss. If you can force your heart and nerve and sinew to serve your turn long after they're gone, and so hold on when there is nothing in you except the will which says to them, hold on. If you can talk with crowds and keep your virtue, or walk with kings, nor lose the common touch, if neither foes nor loving friends can hurt you, if all men count with you, but none too much, if you can fill the unforgiven minute with 60 seconds worth of distance run, yours is the earth and everything that's in it, and, which is more, you'll be a man, my son. Sì, lettera ad un figlio. Se saprai mantenere la testa quando tutti intorno a te la perdono e te ne fanno colpa, se saprai avere fiducia in te stesso quando tutti ne dubitano, tenendo però considerazione anche del loro dubbio, se saprai aspettare senza stancarti di aspettare, o essendo calunniato non rispondere con calunnia, o essendo odiato non dare spazio all'odio, senza tuttavia sembrare troppo buono né parlare troppo saggio. Se saprai sognare senza fare del sogno il tuo padrone, se saprai pensare senza fare del pensiero il tuo scopo, se saprai confrontarti con trionfo e rovina e trattare allo stesso modo questi due impostori, se riuscirai a sopportare di sentire le verità che hai detto distorte dai furfanti per abbindolare gli sciocchi, o a guardare le cose per le quali hai dato la vita distrutte e piegarti a ricostruirle con i tuoi logori mezzi, se saprai fare un solo mucchio di tutte le tue fortune e rischiarlo in un unico lancio a testa e croce, e perdere e ricominciare di nuovo da principio senza mai far parola della tua perdita, se saprai serrare il tuo cuore, tendini e nervi nel servire il tuo scopo quando sono da tempo sfioriti, e a tenere duro quando in te non c'è più nulla se non la volontà che dice loro tenete duro, se saprai parlare alle folle senza perdere la tua vita, o passeggiare con i re rimanendo te stesso, se né i nemici né gli amici più cari potranno ferirti, se per te ogni persona conterà ma mai nessuno troppo, se saprai riempire ogni inesorabile minuto dando valore ad ognuno dei 60 secondi, tua sarà la terra e tutto ciò che è in essa, e quel che più conta, sarai un uomo, figlio mio. Allora non ci resta che naturalmente salutare i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici, ringraziandolo naturalmente per la loro pazienza nell'ascoltarci. E rinnovare gli auguri. Gli auguri, naturalmente. E augurare una buona Pasquetta. Esatto. E alla prossima. E alla prossima. Grazie di nuovo. E io vi dico come sempre, ciao ciao. Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. Questo programma lo puoi riascoltare su bluradioveneto.it.